nani, ti ho scovato dentro ad un sentiero, ma non sono stato mai sincero. Nani, nani, nani, prima e dopo tanti come me, a cercare il mondo che non c'è. Nani, nani, questo bosco ormai è il tuo stesso odore, di una bocca senza il suo sapore. Nani, nani, nani, 20 euro di verginità, quegli al padrone, la mia che resta qua. Dimmi perché tu ami sempre gli altri ed io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando ti ho detto vieni via con me. Nani, nani, nani, piove ma non ti puoi riparare, c'è un camionista da accontentare. Nani, solo come noi, siamo dentro un mondo senza eroi. Dimmi perché tu ami sempre gli altri, io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando t'ho detto vieni via con me. Potrei star giorni ad annusare il tuo mestiere anche con me, potrai sposarmi anche se non mi amassi e capirei il perché. Dimmi perché tu ami sempre gli altri e io amo solo te. Dimmi perché mi hai chiesto di andar via quando t'ho detto vieni via con me. Vieni via con me. Vieni via con me. Questa è la sua ultima apparizione, quella di Lucio Dalla al Festival di Sanremo, qua assieme forse uno tra i più giovani ultimi arrivati, Carone, Pier Davide Carone, quali hanno presentato questa canzone. Lui lo ricorda in maniera molto particolare, perché dice: io sono della sua famiglia non anagrafica, ero l'ultimo nascituro e della sua arte ne rappresento il canto del cigno e la consapevolezza che deriva da questo, smuove in me le emozioni, tanti, io credo siano le emozioni, più di quanto si possa immaginare. E poi tanti altri artisti amici hanno vegliato il corpo di Lucio Dalla, hanno vegliato nella notte a Losanna, la salma dell'artista stroncato da un infarto sarà allestita sabato alle 9.30 nel cortile d'onore del comune di Bologna, la camera ardente per l'ultimo omaggio. La città ha proclamato il lutto cittadino, i funerali si svolgeranno domenica alle 14.30, giorno in cui avrebbe compiuto 69 anni, credo che in pochi non ricorderanno questa data, perché proprio lui ha fatto un disco che riportava per l'appunto questa nascita, o meglio questa data che era poi la data della sua nascita. Lo ricorderemo ancora in questi giorni con tante canzoni, tanti special, perché effettivamente questo grande artista, questo grande poeta ha lasciato un vuoto, credo a sto punto anche incolmabile per alcuni versi, per alcune canzoni. Vi regalo un disco nuovo intanto, James Morrison, si chiama I Won't Let You Go. Take a little time to feel around before it's gone. you saved me now from all of my wrong. Yeah. If this love just feel it, if this life will see it, there's no time to be alone, alone, yeah. I won't let you go. Radio, questa credo sia la più suonata in assoluto in questa settimana. Nuovo di James Morrison, giovanissimo anche lui, si chiama Won't Let You Go. 17:24 sulla radio che si sente e si vede, CRMP Radio, questo è On The Road con Robin D'Antoni insieme a voi sino alle 19 e poi saremo insieme anche durante il weekend con le varie repliche. E quindi a tal proposito devo salutare quanti magari hanno la possibilità e stanno seguendo una delle repliche di On The Road, programma che va in diretta dalle 17 alle 19. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning. Just turning tables, turning tables. Next time I'll be braver, I'll be my own savior when the thunder calls for me. Sai che qualcuno non abbia girato le carte in tavola, come dice Adele, per quanto riguarda la Concordia, no? Ci sono altre notizie, altre denunce telefoniche dei passeggeri che chiamavano i carabinieri, non si sa come siano andate realmente le cose. Il personale che era già sceso, queste nuove voci e appelli disperate della Concordia. Poi ci sarà domani la prima udienza, maxi udienza dell'incidente probatorio. Poi ieri ho visto un attimino Matrix, sempre più precisa e dettagliata la ricostruzione di cosa accadde la notte del 13 gennaio, molte le comunicazioni inedite. Infatti ieri Matrix ha fatto ascoltare le telefonate ai carabinieri da parte dei passeggeri disperati mentre loro chiedevano aiuto. Schittino tentennava nella prima comunicazione con De Falco, quello sì, Schittino, cazzo, salga a bordo subito, lui è lui. Torna di stretta attualità anche il video di soccorso prestati da una motovedetta della finanza, quindi vedremo un po' come andrà a finire. Ai ai ai. Vedremo. Certo che non è un periodo fortunato per la costa, no? Se avete saputo anche l'altro incidente, la nave, la Costa Allegra, che è andata a fuoco, anche se adesso poi ha raggiunto il porto dopo un paio di giorni. Alcuni dei turisti, pensate, hanno deciso. Ah, c'è stato il cibo che veniva calato dall'alto, perché essendo tutto fermo, avendo avuto anche il blackout a bordo, non dovevano dormire all'aperto, non c'era luce, niente, tutto al buio, non funzionavano credo neanche i servizi, quindi ci sono queste questa sorta di testimonianza da parte dei passeggeri che dicevano c'era talmente tanta puzza che avevamo preferito dormire su in coperta, no, scoperti fra l'altro, quindi c'era anche un po' di freddo, vabbè, anche se in quel periodo non fa caldo, però sai, la notte è sempre notte, poi tutta questa adrenalina, sta cosa che ai ai ai ai, effettivamente stavo pensando proprio un anno negativo, un periodo soprattutto negativo, però tutto bene quel che finisce bene. È finito bene questa altra disgrazia, chiamiamola così, da parte della Concordia e della Costa Allegra, tanto che alcuni dei passeggeri poi hanno preferito continuare il viaggio. Beati loro. Vi regalo anche Noemi. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero, lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, parole, parole, parole, parole. E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire, non troviamo un motivo neanche per litigare, siamo troppo distanti. Non cantarla. Lo so che in questo momento ho trasformato l'Italia e non solo l'Italia in un mega karaoke con questa canzone di Noemi, sono solo parole. E adesso devo parlarvi di meteo. Buonasera. No, come faceva Giuliacci. Allora, dicevo prima, prendiamocelo stretto questo, otteniamocelo stretto questo weekend all'insegna del bel tempo, perché poi cambierà. Infatti, grazie all'alta pressione su tutta l'Italia, continua a splendere il sole. Le temperature hanno un sapore primaverile in gran parte del paese. A partire però da domani, aumenteranno le nubi al nord per l'avvicinarsi di un vortice di bassa pressione che domenica riporterà piogge che colpiranno soprattutto l'arco alpino. Ci sarà anche la neve, Lombardia, poi zone interne del centro-sud, le isole maggiori che sono quelle che più ci riguardano da vicino. Quindi da lunedì torna il brutto tempo. Poi a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica proveniente dal nord Europa e seguita da aria fredda, le temperature caleranno, riportandosi però semplicemente all'interno delle medie stagionali. Quindi credo non debba esserci o non farà di nuovo il freddo che ha fatto nell'ultimo periodo, soprattutto sotto Carnevale. Mamma mia che freddo che faceva in quel periodo, eh? Dico, staranno nella media stagionale. Certo, non sarà caldissimo, manco caldo, però credo che non farà manco freddo. Questo è quanto riguarda il meteo per il fine settimana, soprattutto inizio. Gonna push che poi il nostro obiettivo è quello di farvi sentire anche la musica più bella, quella nuova, oltre al fatto di andare a ripescare indietro nel tempo i vecchi successi. In questo caso era Push di Lenny Kravitz, il super tatuato Lenny Kravitz, belloccio però, è un bell'uomo. E da un disco nuovo a un altro nuovo, quello di Nina Zilli, direttamente dal Festival di Sanremo 2012. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre. Perché l'orgoglio in amore è un limite che sazia solo per un istante, poi torna la fame. Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male, mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche a morire. Si è avuto problemi anche con un rettore, mamma mia, beh, capita. Grande personaggio però Nina Zilli, dal Sanremo 2012, questa è per sempre la sua nuova canzone. Mi piaceva tanto, mi piace tanto quanto quella che aveva un po' lanciato L'uomo chiamava le donne. 17.46, buona serata sulla radio che si sente e si vede, CRMP Radio, Roby D'Antoni con voi anche per oggi, ultimo appuntamento settimanale, poi vivremo un altro weekend, il primo di questo nuovo mese di marzo, e non vi preoccupate perché durante il weekend ci sarà la possibilità di ascoltare le varie repliche. Partiranno già stasera da mezzanotte, poi durante il weekend, tra il sabato e la domenica, visto che non ci sentiamo in diretta, vi regaleremo queste repliche, tanto per farvi sapere che ci sono sempre, capito? Voi continuate a segnalarcela la vostra musica, spero di accontentarvi tutti perché insieme staremo sino alle 19. Continuate a farlo tramite il nostro sito crmpradio.it, la nostra linea SMS 335-5637-251. Eventualmente approfittate del nostro profilo Facebook CRMP Radio. questo è il sito dove fra l'altro c'è anche la possibilità di vederci in diretta, proprio così, vederci oltre che sentirci. Lo dico sempre, eventualmente ci fosse gente nuova che per la prima volta si mette all'ascolto della nostra radio, c'è la possibilità di vederci proprio all'opera tramite il nostro profilo Facebook. La troverete la finestrella dove cliccare per vedere il live. Allora crm-happy-radio, questo è l'indirizzo da scrivere su internet per beccarci e diventare nostri amici. Anzi, dicevo, chiedeteci l'amicizia, saremo ben lieti di accettarvi all'interno di questa grande famiglia che sempre più numerosa diventa. Visto che siamo al venerdì e visto che stasera c'è un'altra puntata di Rock Revolution, facciamo un po' di rock and roll. Loro sono i Red Hot Chili Peppers. Un po' di rock sano, una scarica di adrenalina proprio. Questo è il nuovo singolo, si chiama More Like Your Roses. Red Hot Chili Peppers. Dobbiamo fermarci un attimo, devo dare qualche consiglio, anzi dalla regia e consigli per gli acquisti, e poi torneremo ancora in Rode Flashback. Something's bugging me, something's it's out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beats per minute and never been the same. Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. Quanti di voi avevano il poster, no, di ragazzine, credo. Noi in quel periodo avevamo il poster di Madonna, più che altro. Il poster del bel George Michael, The Wham. Questo è un successo negli anni 80, ultimi anni 80, per il bellissimo George Michael, allora leader di questa formazione The Wham. Non mi chiedete cosa faceva l'altro, che effettivamente non ho mai capito cosa facesse l'altro, perché nei video The Wham appariva sempre lui, George Michael, in prima persona, in primo piano, come attore principale, anche nelle canzoni, che era quella solo di comparsa, messo là da spalla. Questo è il nuovo di Laura Pausini, si chiama Non ho mai smesso. Mi ritrovo qui su questo palcoscenico di nuovo io. Mi ritrovi qui perché il tuo appuntamento adesso è uguale al mio. Hai visto il giorno della mia partenza, nel mio ritorno c'è la tua poesia. Stare lontani è stata un'esperienza, comunque sia. Non ho mai smesso di amare te. Non ho mai tolto un pensiero a te. Non ho mai smesso. Ho cercato la bellezza e l'ho trovata in fondo alla semplicità. Ho cercato il mio passato perché mi hanno detto che così si fa. Cerchiamo tutti la strada del bene e la troviamo nelle vite altrui. E questa notte adesso ci appartiene. Non ho mai smesso di amare te. questa è una canzone richiesta da Nadia, e quindi a lei che va dedicata. E va il grazie perché si è amate la Pausini, e grazie a lei che abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo perché l'ha richiesto. E ci porta dritti dritti all'appuntamento con l'informazione. E poi sappiate che anche oggi dedicheremo qualche momento allo scomparso Lucio Dalla, quindi al ritorno vi regalerò un altro grande successo di quel grande... Sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai. Tornerai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità. Tornerai. Ogni tanto guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già. Tornerai. Ogni tanto tremo di paura, ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei. Ogni tanto cado e non ci sei. Non sai che ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. Se solo tu mi sfiorerai, ci stringeremo eternamente. Ce la faremo se tu vorrai. È solo un'assurdità. Se non ci pensi tu, eclissi del cuore sarà. Tornerai. Ogni tanto so che non sarai mai quell'uomo che davvero io vorrei. Tornerai. Ogni tanto so che sei quell'unico che sa come trattarmi nonostante i miei guai. Ogni tanto so che nell'intero universo non c'è niente che somigli un po' a te. Ogni tanto so che non c'è niente di meglio e niente che per te non farei. E ogni tanto cado e non ci sei. E ogni tanto cado e non ci sei. Assurdità. Se tanto non ci sei, eclissi del cuore sarà. Eclissi del cuore. Eclissi del cuore sarà. Sarà. Eclissi del cuore sarà. Di ritorno dopo l'informazione, ho dovuto accontentare un'altra vostra segnalazione riguardo l'aura eclissi del cuore. E poi invece adesso è arrivato il momento di andare ad ospitare un flashback, un classico che andiamo a ripescare indietro nel tempo, e visto che ieri ci ha lasciato, in questi giorni stiamo omaggiando un grandissimo della nostra musica. La musica italiana l'ha fatta conoscere in tutto il mondo, ovvero Lucio Dalla. CR On The Road Flashback. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, oh, il suo nome è detto. Mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più. Senza avere paura domani. Yeah. l'altro omaggio, io ripeto sempre come noi sappiamo farlo meglio, solo con la musica rendiamo omaggio a un grande artista che ci ha lasciato ieri. Da domani in Piazza Maggiore risuoneranno le canzoni di Lucio Dalla, e domenica, tra l'altro, giorno nel quale lui avrebbe fatto il compleanno, se avrebbe festeggiato 69 anni, a Bologna sarà lutto cittadino, lo ha annunciato il sindaco di Bologna Virginio Merola, e poi c'è la Camera Ardente che sarà allestita domani mattina. Un altro grande momento dedicato a questo grande artista che ci ha lasciato. Noi continuiamo con la musica, però prima un po' di consigli per gli acquisti e poi sarà... Standing in a line, wondering why it don't move, trying to get ahead, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love, nothing's real but love. Open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love. You ain't been right. gonna walk all over you. Rock and roll. Dicevo prima, visto che il venerdì sapete, per gli amanti del rock eventualmente non lo sapessero, ve lo dico io, c'è la puntata dalle 21 di Rock Revolution con Simone e Filippo Brancato. Ebbene, loro hanno sempre ospiti in studio, ospiti telefonici, nel senso che si fa l'intervista telefonica. E allora posso dirvi che stasera ci sarà un cantautore palermitano, si chiama Francesco Vannini, sarà presente in studio, mentre telefonicamente verranno raggiunti il Disordine delle Cose, una band torinese che piace la menta, la band torinese che le piace la menta. E quindi stasera dalle 21 ancora grandi ospiti all'interno di Rock Revolution dalle 21. Seguo l'immaginazione, la strada dei passi passati da qui. Sento una dolce evasione negli occhi che mi hanno guardato così. Trova una buona ragione, qualcosa da fare per dirmi di no. Fuori c'è un sogno che aspetta soltanto i tuoi baci per vivere un po'. Baci per vivere un po'. Voglio o no, c'è un'emozione che aspetta soltanto i tuoi baci per crescere un po', baci per cantare un po' più in alto di questo cielo, impossibile cadere giù se distesi in un prato di sguardo, c'è l'infinito. chiama Al posto del mondo, questa bellissima canzone di Chiara Civello. Lei molto brava, tanti hanno speso parole di elogio per questa grandissima artista che è presente anche lei all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Ebbene, ci sono novità per quanto riguarda il piccolo schermo a partire da lunedì 5 marzo. 4 puntate in prima serata su Canale 5. Torna Giorgio Panariello con Panariello non esiste, ospite al Teatro 5 Fellini di Cinecittà. Ci saranno Tiziano Ferro, James Taylor, Micaela Ramazzotti. Qualcuno dice: chi è Micaela Ramazzotti? Chi è Micaela Ramazzotti? Come la protagonista di Posti in piedi in Paradiso di e con Carlo Verdone, il nuovo film di Carlo Verdone che arriva al botteghino in questo fine settimana. Credo che farà grossi incassi. E poi ci sarà presente anche Nina Zilli, con la quale lo showman farà un omaggio a Lucio Dalla. Quindi lunedì questa prima puntata, puntata zero potremmo chiamarla, di Panariello non esiste. Chissà che non voglia essere una risposta allo show di Fiorello. Vedremo se riuscirà a fare i numeri che è riuscito a registrare il fortissimo showman di Augusta. Ci riuscirà? Boh! Poi eventualmente martedì ne sapremo parlare meglio. 18:29 insieme sino alle 19. Buona serata sulla radio che si sente e si vede. CRM Epi Radio, c'è Roby D'Antoni con voi anche per oggi, ultimo appuntamento della settimana. E adesso vi regalo un altro disco nuovo, molto molto bello. È quello dei Coldplay, si chiama Charlie Brown. Stole a key, took a car downtown where the lost boys meet. Took a car downtown and took what they offered me to say. Charlie Brown, Coldplay, un attimo di Rode, flashback. visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Un altro classico, un altro flashback, un disco che sono andato a ripescare indietro nel tempo, di Loredana Bertè, Mare Mare. Stavo leggendo la notizia che riguarda Italia's Got Talent. Sono rimaste ormai in 24, solo 8 accederanno alla finale sabato 3 marzo dalle 21 in diretta su Canale 5, l'imperdibile appuntamento con lo show del talento Italia's Got Talent, giunto alla seconda semifinale di questa terza edizione. Perché ne ho voluto parlare? Perché stasera tra gli ospiti chi ci sarà? Chi ci sarà? Chi ci sarà? Chi c'è dall'altra parte del telefono? Pierangelo. Ciao Pierangelo, come Ciao. Va? Com'è? Tutto bene? Sì, sì. Ma sei emozionato stasera? Sarai di scena? Sì, un po'. Un po', però tu, dico, tu hai tanto talento, Pierangelo, non ti devi emozionare. Bello. Allora, com'è? Ti sei preparata? Avete già fatto le prove? Perché stasera, ricordiamo, sarà una puntata in diretta, vero? No, stasera, domani sarà. Domani, scusa, vero? Domani è sabato, scusa, grazie per avermi corretto. Domani sabato, oggi è venerdì. Allora sono più emozionato io di te. Stasera perché... c'è la prova generale. Avete le prove generali, ma sarà... chi ci sì. sarà là accanto a te, Piera? Chi? Una ballerina. Ah, avrai anche la ballerina accanto? Sì, e due che parlano. Nella allora, praticamente c'ho un lampione. No, svelare niente, così sennò. Pira, se no leviamo la bellezza della, infatti, della, della sorpresa. Della sorpresa. Ma dimmi una cosa. Sarai... Vabbè, ho detto solo che c'era il lampione. C'è solo un lampione e basta, va bene. Senti una cosa, tu sarai tra i primi, è vero? Diciamo solo che non ti canto, Spa. Ti dicevo, Gioia, sarai tra i primi a cantare, no? Ad esibirti. Sì, ti hanno dato già il numero. Il sesto. Il primo gruppo, sono il sesto del primo gruppo. Il sesto del primo gruppo, perfetto. Quindi avrai il tempo di scaricare la tensione. Un bel respirone. L'hai fatto un bel respirone, lo farai domani. Poi c'è un trucco, sai qual è il trucco, Pierangelo? Un bacio sulla fronte a Belen. Tu arrivi là, dai un bacio sulla fronte. Te lo farà dare un bacio? Se lo farà dare, tu che non dici? So da quale parte è. Esci. Non so se è da me o dall'altra parte. No, ma io credo che tu uscirai da là, no? Vicino lei? No, non so. Le facciamo oggi le prove generali, quindi sarò... saprò tutto stasera. Saprai tutto stasera, ma dimmi una cosa. Poi tu ce la sarà pure Belen e Simona. Sì, stasera. Simone, sì. Ce la saluterai, Belen? Ti saluta Roberto, ti mando un bacio. Ti saluta di Cefalù. Ti saluta un amico mio di Cefalù, Roberto. Che, ok. Poi dici, ti saluta CRM, la radio di Cefalù, dove ti ascolta. Sì, aspetta, ma stai parlando alla radio? Siamo in diretta radio, sì. Allora, allora che ci parli? Poi ti sentono tutti. Che è certo che ti devono sentire tutti. Sì, però ti sentono tutti che devo salutare. Vero, una sorpresa. Facciamo finta che non ti ho detto niente. Allora, deve essere una sorpresa. Ragazzi, fate finta che non avete sentito niente. Avete capito? Non avete sentito niente. Devi salutarci soltanto. Dici, Belen, un saluto da CRM, va bene? Ok. E allora facciamo una cosa, piccolo grande amico mio. Sì, che facciamo? Cosa? Grande amico mio. Tu sei un piccolo grande amico mio, sei forte. L'unico, tu sai qual è il tuo unico difetto, vero? No. Te lo dico io? Sì. Tu hai tanti pregi, ma hai un solo difetto, che è quello che tifi per l'Inter. Sì. E allora, se tu ti devi fidanzare con mia figlia, caro amico mio, devi cambiare squadra, se no non c'è niente da fare. Io non posso far entrare un interista a casa mia. Io con tua figlia ci sentono tutti. Zitto, Pier... E allora, Pierangelo, tu hai mi piace, bro. Ti sei fidanzata con proprio tua figlia. Ti sei fidanzata con un'altra? Non è tua figlia. Ma sei diventato un Latin lover. Da quando hai raggiunto tutto sto successo, hai visto? Cioè, le ragazzine ti vengono dietro. Pierangelo, senti. Sì. E allora, io ti lascio adesso il microfono aperto. Sì. Tu devi fare un appello a tutta la gente che ti sta seguendo in radio. Sì. Domani sera votarti. Ma che devono votarti. Vai, vai. Chi mi deve votare? Cioè, per domani, no? Tramite il televoto, quindi tu devi. Non so chi mi vuole votare. Chi mi vuole votare mi vota. No, devono votare. Fai l'appello. Amici siciliani. E vabbè, lascia perdere. Chi mi vuole votare mi vota. Ah, bravo, bravo, ma tu te lo meriterai il voto. Sono sicuro, incrociamo le dita, ma sono sicuro che passerai il turno. E ti vedremo ancora per la finale. Spero che passerò. Va bene, in dai. In finale. In bocca al lupo, piccolo perché grande amico mio. Il lupo. Un bacione, in bocca al lupo, salutami papà e mamma. Ciao. Ehi, ciao. Mi raccomando, domani un bel un bel respirone. Okay. Respirone forte forte, entri in scena e spacca tutto. Spacco tutto. Tocco tutto il palco. Sì. Lo faccio a mille pezzi. Sì, perché tu sei Pier Angelo. The Black Keys, Gold on the Ceiling, un altro disco rock giusto per fare un assist ai nostri amici stasera. Filippo e Simone Brancato con Rock Revolution, Francesco Vannini, un cantautore palermitano, ospite in studio, e poi una band torinese saranno ospiti e verranno raggiunti telefonicamente. Adesso un attimo di pausa, poi ancora On the Road sino alle 10. Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro ad uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che è una scalera. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Ora. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi al panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che lo scalerò. questa la devo dedicare a Maurizio, che mi ha inviato un messaggio. Dice: bella questa ora. Ciao Roby, ciao Maurizio. Naturalmente, pochi minuti poi dovremo salutarci. Sentite se non è un'offesa alla povertà. Allora, prima fa la sauna, poi la piscina e poi la drammatica sorpresa, perché guardandosi allo specchio la signorina Rihanna ha scoperto che i suoi capelli erano un disastro e allora ha chiamato subito la sua hairstyle. Cioè, vabbè, normale, avrà una parrucchiera privata, sì, ma la signora doveva arrivare, la stilista sua personale doveva arrivare da Los Angeles, che è immediatamente partita per Londra. Ebbene, costo del taglio e messa in piega 18.000 euro. Quando è uscita dalla piscina aveva i capelli aggrovigliati, arruffati, ha usato un po' di balsamo, ma niente da fare. Allora ha deciso di mettere un cappellino in attesa che arrivasse la sua hairstylist Ursula Stephen, e ha rimediato il tutto. 18.000 euro un taglio di capelli, ma manco taglio, messa in piega. From the start, we met with a goodbye kiss. I broke my wrist. It all kicked off. I had no choice. You said that you didn't mind. 'Cause love's hard to find. La la la la. Maybe disco per salutarci, sembra fatto apposta, però non l'ho scelto, è capitato così casualmente. Però si chiamano Kasabian e questa è Goodbye Kiss. Ultimo disco di oggi, a questo punto non mi rimane altro da fare che ringraziarvi come al solito per esserci stati, rinnovare l'appuntamento a lunedì per una nuova puntata in diretta, eventualmente come al solito potete seguire le varie repliche durante il weekend. È tutto, alla prossima, bye da Robin Antoni. If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Welcome. Eccomi, eccomi, sono pronto. Io non trovo niente da ridere. Io, poi... Ma che c'è, l'ultimo appuntamento della settimana, oggi è il venerdì, è il 2 di marzo, questo è On The Road, Robin Antoni con voi sino alle 19, quindi buona parte della serata la trascorreremo insieme. And now, your favorite DJ. Tra l'altro, poi devo dirvi tutte queste novità riguardo Facebook, il nostro profilo, tante, però direi di iniziare subito, flashback, vai! Flashback. Senti che disco, senti. Primo disco di oggi. Me lo date per favore? Eccolo. Senti che disco oggi che ti regalo per iniziare l'appuntamento ultimo della settimana. Senti, Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. della serie Chi bene inizia è già metà dell'opera, i Pink Floyd, oggi primo disco ufficiale all'interno di On The Road, andato Breaking The Wall. Poi ho avuto l'occasione un bel po' di annetti fa di vederli dal vivo in quel di Cava dei Tirreni, mamma mia che concerto, anche se poi in quell'occasione era un altro album, non era questo The Wall. Davvero straordinario Pink Floyd con la chitarra e la voce di David Gilmour. E allora buon inizio di pomeriggio, ancora il sole alto nel cielo, poco fa c'era un po' di nuvola, no, in giro, però adesso si è ristabilita la situazione meteo con il sole, anche se qualcuno dice che già con l'inizio della prossima settimana ritornerà ancora il brutto tempo, ma speriamo di no veramente. Io faccio gli scongiuri perché da due giorni che c'è il bel tempo, siccome io sono molto meteopatico, e allora e quando c'è il sole io sto bene, ma credo un po' tutti noi, no? Soffriamo il brutto tempo, il freddo, noi siamo di sangue caldo, abbiamo bisogno del sole, delle belle giornate, abbiamo bisogno di stare un po' come le lucertole, che quando arriva il sole tutti là, oggi sono stato un bel paio d'ore sul lungomare di Cefalù, in giro, fare una bella passeggiata, approfittarne anche per digerire, e queste belle giornate però, ti mettono il bell'umore addosso. Massimo mi manda un messaggio, mi dice, sono andato nel 95 a vedere Pink Floyd in concerto. E anch'io, Massimo, io ci sono andato l'89, qualche annetto prima, in Cava dei Tirreni. Poi c'è stato il mitico concerto Venezia, là dove hanno distrutto un po' di statue, no? Hanno fatto qualche dannetto causa i troppi batte che uscivano dalle casse. Sì, soffro di depressione invernale. No, depressione no, però soffro il brutto tempo. A me non piace il freddo, la pioggia soprattutto. No, non mi piace, a me piace il bel tempo, il sole. E così sono pimpante, allegro quando arriva il sole. Sono di sangue caldo, dicevo, un po' tutti noi, soprattutto gente della Sicilia, i secoli, noi siamo un po' così. E allora noi, prima di andare avanti con la nostra musica, io intanto devo darvi subito le coordinate per raggiungerci: 0921 923292, questa è la linea più diretta, ma sapete già da qualche giorno tramite il nostro profilo Facebook CRMP Radio avete anche la possibilità, oltre che richiedere i dischi, di vederci all'opera, proprio così, oltre che sentirci, vederci, perché andando nella pagina ufficiale di Facebook, ovvero CRM .epi.radio, senza punto, staccato ma senza punto, là è la pagina ufficiale, troverete anche la finestrella dove seguirci in diretta live, in streaming. Un attimo di pausa, poi sarà ancora On The Road.